triste che voleva morire, infatti oggi più non esiste. Ma io v'assicuro che la vita l'ha vissuta più nel suicidio che nel resto della sua avventura. Così giunse dal prete per farsi confessare, esordì dicendo: idoneo, mi voglio suicidare. Il prete lo guardò, sembrava lo volesse esortare, ma in realtà gli disse che per l'indulgenza i suoi beni gli doveva lasciare. Subito dopo cercò un metodo per potersi ammazzare. Provò col digiuno, ma dopo poco gli prese fame. Comprò un cappio per il collo, nessuno lo poteva fermare, ma non si ricordava che il nodo non lo sapeva fare. Si recò al bosco, entrò nella tana dei lupi nell'ora della luna. Sfortuna volle che gli animali quel giorno soffrissero di gastrite acuta. Rifiutato dai carnivori, provò a buttarsi da un palazzo, ma aveva le vertigini, svenne, si risvegliò ancora vivo esclamando: che cazzo. Un camionista ubriaco non riuscì a evitarlo, morì per attraversare la strada.